Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il testo scritto a mano era lunghissimo. Quell'uomo si presentava e risultava anche interessante. Dopo essersi presentato, passava a descrivere me e il modo in cui mi aveva osservata e ammirata per tutto il viaggio, senza che io me ne accorgessi. Mi chiamo Elisa, ho 27 anni. Vivo a Brescia e sono sposata. Immaginatela così. Lei è neozelandese, ha all'incirca 20 anni, 21, 22, non di più. Viene in Italia a passare un anno per studiare e vive alla pari, in una famiglia di un paesino della provincia di Bergamo, quindi nemmeno una grande città, un piccolo paese. Vive lì e fa quello che fa una ragazza alla pari, studia, va all'università e dà una mano in casa. Già che c'è però è in Italia e quindi va a farsi dei giri per questo paese. E quindi prende treni e va a visitare diverse città. Un giorno arriva a Milano e prende un treno per Torino. Milano-Torino è un'ora e mezza di treno, non di più, un'ora e quaranta, facciamo anche due quando c'erano gli interregionali. Andando, ma soprattutto tornando, incontra un ragazzo. Non l'ha mai visto prima, è italiano ed è un tizio che ha incontrato su un treno. Si lasciano un numero, probabilmente il numero fisso, perché all'epoca si parla di 10-12 anni fa, probabilmente lei il cellulare non ce l'ha ancora. Quindi gli lascia proprio il numero di casa, la casa in cui sta ospite, in questo paesino in provincia di Bergamo. Cominciano a telefonarsi, cominciano a incontrarsi, si fidanzano, lasciano tutto, partono e passano 6 mesi sulle navi a lavorare. Lei fa la cameriera, lui fa probabilmente il lavapiatti o quelle cose che si fanno sulle navi per 6 mesi se non sai suonare il pianoforte. Poi tornano a casa, tornano in Italia, stanno un po' insieme finché si sposano e oggi vivono in Nuova Zelanda. Tutto questo succede perché un giorno su un treno questa ragazza che tornava da Torino ha incontrato questo ragazzo e in un'ora e mezza si sono presentati. 349-238-6666 oppure voi siete qui @radio24.it, ma anche se avete aperto Facebook, e visto che è un lunedì pomeriggio qualunque, Facebook ce l'avete quasi sicuramente aperto. Matteo Caccia, io sono qui. Oggi si parla degli amori leggeri, ma anche quelli che poi prendono una forma più pesante, sembra brutto, però più importante, degli amori leggeri che si incontrano nei viaggi in treno. Questo vale sia per quelli che fanno un viaggio ogni tanto in treno, ma soprattutto per i pendolari. Anzi, se ci fosse qualcuno che in questo momento è su un treno, c'è qualcuno che si porta una radiolina in treno e l'ascolta? No, non l'ascoltate per forza, solo l'iPod o i podcast. Quindi se siete su un treno e se siete dei pendolari e se vi capita ad esempio di aspettare mezz'ora e prendere un treno diverso da quello che potreste prendere semplicemente perché volete incontrare una ragazza o un ragazzo che incontrate sempre, se cercate apposta tutti i giorni in cui prendete il treno, cioè se cercate il vagone giusto per incontrarlo o per incontrarla, se gli avete parlato, se non gli avete parlato, se è successo qualcosa o se sta per succedere, 349-238-6666, tirate fuori il vostro cellulare e raccontatecelo. Non deve essere per forza la storia della ragazza neozelandese, che è vera, me l'hanno raccontata 2 ore fa a pranzo prima di venire qui, proprio perché stavo raccontando qual era il tema della puntata di oggi. Non deve essere per forza quella, non deve essere nemmeno per forza una storia di grandi amori sbocciati, che so io, in viaggi come l'aereo. Se ne parlava prima con Tiziano, che si è fatto giusto stamattina un viaggio da Foligno per venire qui e se l'è fatto in treno, che comunque i treni sono quei luoghi in cui dipende da come sei fatto, o speri di incontrare qualcuno che ti si sieda davanti, qualcuno di interessante, uomo o donna che sia, oppure decidi di isolarti perché accanto a te ci sono quelli che si fanno il panino, non se lo fanno, se lo mangiano, proprio se lo fanno, avete presente quelli che aprono il panino, tirano fuori il prosciutto e se lo schiaffano a grosse fette di fianco a voi con tutti i profumi che magari alle 7 di mattina non è piacevole odorare. Ecco, il treno è un luogo in cui o speri che succeda qualcosa oppure speri che passi il più in fretta possibile. Oggi si parla del primo dei casi, speri che succeda qualcosa, soprattutto se si tratta di incontri. 349-238-6666. A proposito di treni, a proposito di viaggi, visto che ne abbiamo parlato venerdì e qualcuno l'ho accolto e me l'ha richiesto, non è ancora ufficiale, ma è altamente probabile che questo programma, per la prima volta direi da quando esiste, ma per la prima volta da quando siamo qui a Radio 24, esca da questo studio, esca dalla sede della radio e del Sole 24 Ore in via Monterosa 91 da questa sede di Milano e vada in giro. Si prevede un breve ma molto concentrato tour in giro per l'Italia, quindi la cosa che vi chiediamo di fare è non vi chiediamo passaggi in automobile, non vi chiediamo di rimanere a dormire a casa vostra, vi chiediamo semplicemente, visto che ancora le città sono da scegliere, suggeriteci la città dove andare. Allora l'idea è questa, ve lo dico in breve: da lunedì a venerdì, ok, una settimana intera, partire da un punto il più a sud possibile e andare in un punto il più a nord possibile, magari tornando a Milano o viceversa. L'importante è che tutti i giorni noi possiamo fare una tappa, probabilmente in una libreria o in un posto da cui trasmettiamo in diretta, in cui incontriamo le persone che sono lì e in cui soprattutto raccogliamo i racconti. Per cui non ve li chiediamo semplicemente stando seduti col nostro sedere al caldo in redazione, ma veniamo a prenderceli. Poi magari vi chiediamo anche la versione in file, sempre a voi, siete qui @radio24.it. Ma tant'è, dicevamo, suggeriteci una città. Però non è che ci potete suggerire, che so io, Casale Monferrato oppure Barberino del Mugello o Ronco Bilaccio. È normale. Se citi Barberino del Mugello è impossibile non citare anche Ronco Bilaccio. Immaginate una città magari vicina a casa vostra che potete raggiungere voi, che possono raggiungere gli altri e anche noi, no? Per cui Bologna, se pensiamo all'Emilia Romagna, è facile, ma anche Piacenza magari, Firenze, se pensiamo alla Toscana, è molto semplice. Poggi Bonsi no, ad esempio. Già arriva un messaggio al 349-238-6666. A parte che non so se a Poggi Bonsi c'è una libreria. Sicuramente. Scusa, Bonini allarga le braccia, come dire. Quanti abitanti avrà Poggi Bonsi? 15.000? 20.000? Ok, ci sarà una libreria. Però è un po' scomodo arrivare a Poggi Bonsi. Magari è un po' più comodo Siena, ad esempio, o Firenze. 349-238-6666. La città dove volete che passi il tour, ma soprattutto l'incontro che in qualche modo, anche se leggermente, vi ha un po' cambiato la vita e che è accaduto in treno. Tutto perché ci ha scritto Elisa. È una storia molto leggera, molto garbata, che non le ha cambiato la vita, ma un po' gliela addolcita. Doveva essere un venerdì pomeriggio. Ricordo perfettamente l'intensa sensazione di pregustarmi un fine settimana con il mio fidanzato. A quell'epoca non desideravo altro, ed è ancora adesso così. Salii sul treno nella caotica stazione centrale. Doveva essere inverno perché era pomeriggio, ma era già buio. Avevo un trolley. Cercai svelta il primo posto libero in uno scompartimento. Sapevo che riuscire a sedersi in un posto vero e non sul seggiolino pieghevole del corridoio sarebbe stato un lusso. Infatti, individuato il posto, non me lo lasciai sfuggire. In quegli anni studiavo all'università a Milano e poi, siccome avevo il fidanzato a Brescia, tornavo a casa tutti i fine settimana. Un uomo mi aiutò a caricare il trolley nel portabagagli sopra le teste dei passeggeri. Non pensavo di aver bisogno di aiuto, ma c'era una gran confusione e lui lo fece. Anche lui aveva una valigia, era pesantissima perché disse è piena di libri. In un istante pensai di catalogare il tipo. C'era qualcosa di vagamente affascinante in un uomo con una valigia enorme piena di libri. Ma la figura nel suo complesso non accattivava. Alto, riccio, forse con gli occhiali e con un po' di pancetta. Mi sedetti al mio posto vicino al finestrino, opposto al suo, nel piccolo scompartimento da sei, e mi immersi nei miei pensieri di innamorata, leggendo un libro. L'uomo scrisse tutto il tempo. Arrivata alla mia fermata, raccolsi le mie cose ed uscii nel corridoio. Lui ritenne opportuno uscire a sua volta nel corridoio come per farmi spazio. Questo confermò la mia vaga impressione di prima, di una persona eccessivamente galante, e io detesto la galanteria eccessiva. Ma ero troppo lieta e gaia per scocciarmi minimamente e ringraziai della cortesia allo stesso modo in cui avrei ringraziato se si fosse limitato a scostare le ginocchia per farmi passare. Nell'istante in cui ci trovammo faccia a faccia, nella piccola profondità del corridoio, lui alzò una mano, la alzò all'altezza del petto e mi porse una busta. Io non osavo prenderla. Allora lui dovette aggiungere qualcosa, una frase tipo «La prenda, la prego, è troppo importante». Io la presi e scesi dal treno. Salì in macchina. C'era sempre il mio fidanzato ad aspettarmi alla stazione. Subito gli racconta l'accaduto e lui mi invitò ad aprire la busta. Sto ancora con Roberto, che nel frattempo è diventato mio marito. Stiamo insieme praticamente dall'inizio dell'università e devo dire che sì, è abbastanza geloso. Il testo era scritto a mano ed era lunghissimo. Iniziava sul retro di una cartolina che rappresentava un'opera d'arte, poi però lo spazio della cartolina si era rilevato del tutto insufficiente e la scrittura piccola, ordinata e maschile riempiva un intero foglio grande, fronte e retro. Quell'uomo si presentava e devo dire risultava anche una persona interessante. Dopo essersi presentato passava a descrivere la mia persona, il modo in cui mi aveva osservata e ammirata per tutto il viaggio, senza che io me ne accorgessi. Si era immaginato delle cose di me che mi colpirono per la veridicità. Gli piaceva il modo in cui ero vestita, jeans e maglietta. Aveva notato anche l'anello al dito, che gli piaceva perché molto fine, scriveva. E aveva dichiarato di temere che fosse il segno di un legame con un uomo, come in effetti era. Anche il mio ciondolo l'aveva colpito. Poi scrisse che nutriva la speranza che lo ricontattassi e tappezzò la lettera del suo nome e del suo indirizzo. Avevo letto al mio fidanzato tutta la lettera a voce alta, sperando che il tono della mia voce non tradisse troppo l'emozione e la lusinga che si formava in me. Mi chiedevo come avrebbe reagito lui. Il mio fidanzato commentò che era sicuramente una persona colta e che non poteva biasimarlo, perché lui, probabilmente, avrebbe fatto lo stesso. Provai un acuto dispiacere nell'immaginare quell'uomo che per una settimana, ma forse un mese, forse di più, avrebbe sperato di ricevere una mia telefonata, un'email o una lettera. In cuor mio gli augurai tutto il bene possibile e ancora oggi glielo auguro. This road has all but taught me lessons about my lonely soul. I am young and getting wiser. Soon I will grow old. Strip my heart from misconceptions. Fill my eyes with greed. Io ho 37 anni e appartengo alla generazione a cavallo tra il treno e l'aereo. Voglio dire che la generazione prima della mia difficilmente poteva permettersi l'aereo, se non per lunghi viaggi, importanti magari. Ora invece si può scegliere se andare a Roma in aereo, ad esempio, anziché in treno, e così si spende la stessa cifra, se non di meno. Però io ho fatto in tempo ad usare il treno per lunghi tragitti quando avevo 20 anni. All'epoca l'aereo mi sembrava una cosa per ricchi, adulti. Sono andato almeno 4-5 volte a Gardaland partendo dalla stazione di Novara. Cambiavamo a Milano e scendevamo a Desenzano del Garda. Da lì la navetta per il parco giochi e poi al ritorno la stessa roba. Solo che a Gardaland si andava in gruppo e viaggiare in treno in gruppo non vale. Perché come sempre succede, i gruppi sono esclusivi e nessuno ci entra, a meno che non sia una ragazza carina che magari qualcuno ha abbordato. Sono andato svariate volte anche a Roma a tentare fortuna come attore, facendo provini per il teatro e il cinema, con la gente che mi diceva «lasci foto e curriculum», e poi io correvo in stazione per non perdere il pendolino. All'epoca ancora credevo nelle Ferrovie dello Stato e nel cinema italiano. Ma mi sono sparato anche un paio di viaggi lungo la dorsale dell'Italia, Mi sono fatto Milano-Napoli, Milano-Taranto, Milano-Ancona e questi di giorno, e poi invece Milano-Reggio Calabria e Milano-Taormina passando da Bari, di notte. Ecco, in quest'ultimo viaggio conobbi un signore di cui non ricordo il nome e nemmeno il viso, ricordo solo la voce. Ci parlai per un buon 3 ore. Eravamo nel corridoio buio del treno, fuori dalla cuccetta dove dormivamo e dove c'erano altre 4 persone, solo che per dormire in quella cuccetta ci volevano i tappi per le orecchie e fosse stato possibile pure per il naso. Quel signore era pugliese e mi raccontava che tornava a casa dopo essere stato a Biella a trovare il figlio sposato e i nipoti. Non vedeva l'ora di tornare giù. Il nord gli piaceva, mi disse, ma solo per un paio di giorni. Poi iniziava a infastidirlo. Lui era uno di quegli individui che non incontri nella tua vita se sei del nord, se hai 20 anni, studi all'università e cerchi di fare l'attore, come facevo io. Li incontri solo una notte su un treno. Nella sua vita aveva fatto l'ambulante. Vendeva utensili, piatte, tazze di terracotta e raggiungeva le piazze con un mulo, molti anni prima. Mi raccontò di una notte in cui si perse sulle montagne della Basilicata, che all'epoca non sapevo nemmeno dove fossero bene, e fu quasi sbranato da un lupo. Lo ascoltai senza dire una parola, al punto che dopo 3 ore pensai quasi di aver perso la voce, perché era un sacco di tempo che non la sentivo. Mi parlò di tutto, del lavoro, della sua vita sempre in movimento e della prima volta che aveva preso un treno e aveva avuto paura, tanto andava veloce. Quando arrivò al mattino aprì gli occhi e il treno era già fermo a Bari e lui non c'era più. Non prendo più il treno così spesso. Un po' mi mancano quegli incontri, però. Incontri come quello di Elisa, in cui tu stai in silenzio e gli altri parlano o scrivono per te. 3, 4, 9, 2, 3, 8, 6, 6, 6, 6. Intanto stiamo stilando una lista di tutte le città che ci state consigliando e vi ringrazio. Già me ne rimangono in mente alcune. Guidonia, ad esempio, che è nel Lazio, Guidonia, giusto? Non so esattamente, credo a sud di Roma. A sud di Roma, vedi che basta concentrarsi un po'. Più tardi ve la leggo tutta. 3, 4, 9, 2, 3, 8, 6, 6, 6, 6. Si parla però di incontri in treno, prima ancora che dei luoghi da andare a visitare con il tour. Milano-Londra 1984 in treno, io italiano, lei francese. Flirt saffico fino a Calais, lei scese, io andai a Londra. Ciao. David, ma con chi mi devo presentare? Io che sono sempre sudaticcio, sai che imbarazzo stringere la mano? Che vita di merda. David, su, tieniti un fazzoletto in tasca piuttosto. Ceduto posto a docente romana di storia dell'arte, per 2 anni mi ha portato per gallerie e musei, ora so chi sono. E poi cita nomi di pittori. Ah, ora so chi sono, scusami, vedi, io l'avevo già letto in un modo molto più filosofico. Ora so chi sono, Calder, Mondrian, Hopper e De Chirico. E io invece immaginavo, e ora so chi sono, capito, come se quell'incontro... Che imbecille. Ma oggi però è arrivato un messaggio che di fatto smonta completamente il messaggio di Elisa. Perché Fabio ha scritto così. Voi immaginatevi questo signore che Elisa descrive, che le lascia al posto e scrive di lei, e scrive tantissimo, un foglio pieno. Alla fine dice, la prego, prenda questo foglio perché è troppo importante. E la descrive. Fabio mi scrive: un mio amico, l'animale, questo è il soprannome, per anni ha viaggiato in treno. Lui ha scritto una poesia nella sua vita, una sola, si intitolava Un viso, un sorriso. Ma ogni viaggio in treno percorreva tutta la carrozza squadrando le ragazze più carine. Ne sceglieva una, ci si sedeva nei pressi. Fingeva per tutto il viaggio di scrivere ciò che aveva già scritto, già pronto. Cercava con lo sguardo ispirazione nei suoi occhi. Poco prima dell'arrivo consegnava la lettera in cui egli dava il proprio numero di telefono. Spessissimo, dico spessissimo, la prescelta mandava sms con numero lusinghe, credendo di essere stata musa ispiratrice di una dolcissima poesia. Grande animale numero uno, scrive Fabio, ora è sposato, vive in Israele e fa il danzatore. Ogni tanto torna qua e gioca a tennis con me. Questo è il messaggio. E come diciamo prima con Tiziano, ne basta uno di questi per smontare il lavoro di 100 degli altri, cioè di 100 di quelle persone che hanno incontrato Elisa e che magari avevano una vera ispirazione e in qualche modo hanno cercato di conoscere una persona, smontati da uno come l'animale. Torniamo a Elisa, perché Elisa ha avuto qualche problema e non è potuta essere con noi oggi al telefono, quindi l'abbiamo ringraziata per il suo racconto e siamo andati oltre, come di solito facciamo, anche se ci piace avercela la persona al telefono. Ve lo dico sempre, mica che magari vi trovate spiazzati quando Margherita vi chiama dicendovi ah, abbiamo bisogno di sentire la tua voce. Però è arrivato un altro messaggio su Facebook e quindi non potevamo fare a meno di sentire lui. Il messaggio era questo: io per una ragazza conosciuta in treno ho cambiato fede calcistica dalla Juve all'Inter 1998, nemmeno nel periodo migliore. Se mi chiami te la racconto. E quindi ovviamente la cosa che dobbiamo fare è semplicemente fare il suo numero. Pronto Marco? Pronto Matteo. Ciao. Buon pomeriggio a te. Come stai? Molto bene, grazie, molto bene. Dove ti trovi? Sono ad Alba, sto aspettando di entrare da un cliente e quindi sto facendo un po'... lo sto tenendo sulla porta. Fai melina. Senti, facciamo in fretta allora. Raccontami tutto, il treno, dove eravate diretti, da dove venivate? Entrambi studenti, io tecnologie alimentari, lei ingegneria edile, se non ricordo male, un venerdì pomeriggio, Milano Lambrate, per un errore del nostro ci siamo trovati sul binario per Cremona anziché Verona. Quando abbiamo visto la littorina sgangherata siamo tornati di corsa sul binario per Verona. Si è messa a chiacchierare tutto il viaggio, a Verona ci siamo scambiati i numeri di telefono, ne è nato un piccolo flirt come possono nascere ai tempi dell'università. Io stavo vivendo un periodo travagliato di passaggio dalla Juve a qualsiasi altra squadra perché non ma scusami, ma spiegami questa storia, com'è possibile che nel 98 uno che ti fa la Juve, che è la squadra che vince tutto, voglia cambiare per ti fare l'Inter? Non, tra l'altro non mi piaceva l'arroganza che stava venendo fuori con la triade. Va bene, ok, insomma vivevi una battaglia interiore, ok, un travaglio interiore. E com'è che questa era interista lei? Lei è interista, andava allo stadio in curva, appassionata, innamorata follemente, in maniera platonica, di Berti. Sai, ci siamo frequentati. Come no, Nicola Berti, come dimenticarlo? Nicola Berti. E pensavo fosse potesse nascere qualcosa di importante. Alla fine lei se n'è andata, penso faccia l'ingegnere, costruisca case, non lo so. È rimasto però l'amore, la passione per l'Inter. Cioè, tu quindi sei ora sei interista? Io sono interista, al mondo siamo in due ad aver cambiato squadra. Pensavo fossi il solo. No, l'altro è l'ex direttore del TG4, però lui l'ha fatto penso per altri motivi, il mio era un po' più nobile. Vabbè, questo non è dato saperlo, io mi fermo alla tua testimonianza e visto che quelli che non hanno fede calcistica non lo possono sapere, sappiate che questa è una roba che di fatto avviene veramente molto raramente. Ti ringrazio molto Marco, ti lascio andare ciao, dal tuo cliente. Ciao, buon grazie pomeriggio. Ancora. È arrivato un altro messaggio che diceva, questa è in partenza, Verona-Bangkok, treni e bus, fra un mese si parte. Facci sapere qualcosa di più, magari dopo la borsa. Voi siete qui. Verona, Vicenza, Conegliano Veneto, Orta San Giulio, Pisa, Lucca, Ancona, Ascoli Piceno, Lodi, Cantù, Crema. Io vi ringrazio davvero, siete magnifici anche a invitarmi a consigliare Orta San Giulio per il tour, che è un posto magnifico e che conosco solo perché sono di Novara. O solo, no, perché sono di Novara e lo frequento. Però è un po' complicato portare... Cioè deve essere un luogo in cui la gente possa arrivare facilmente. Orta San Giulio è un delirio arrivarci. Anche Lodi magari è più facile, però non ha quell'appeal. Anche Cantù forse non hanno quell'appeal che può avere, che so io, una città un po' più grande. Crema ad esempio, Bergamo, Belluno. Chi è che ha messo Belluno sotto nella categoria Lombardia, ragazzi? Roma, Latina, Guidonia, Modena, Zocca, città di Vasco Rossi. Piacenza, una volta ho sentito Vasco Rossi raccontare che va a Zocca a trovare sua mamma e a portare suo figlio che gioca con gli amici a Zocca e quando, che non so quanti anni abbia il figlio, forse meno di me, o comunque gli incontra i suoi amici a Zocca e gli chiedevano cosa fai quando vai lo porti e poi torni a prenderlo. No, sto lì con mia mamma a chiacchierare. E io mi sono immaginato questo Vasco Rossi a casa che chiacchiera con la mamma a Zocca. Così, provateci un attimo anche voi, provate un attimo a immaginare, Vasco Rossi chiacchiera con la mamma a Zocca. Uno dirà, cosa c'è? Tutti quanti chiacchierano con la mamma. Sì, però Vasco Rossi che chiacchiera con sua mamma a Zocca. E ancora Piacenza, Ferrara, Parma, Gemona del Friuli, Siracusa, Trani, ragazzi, la Sicilia ci piacerebbe tanto, temiamo sia un po' lontana. Catania, Ragusa, tra l'altro non so chi, credo quello che ha scritto da Ragusa, dice Ragusa è la città più a sud d'Italia e poi a Matteo Caccia piace. Non so esattamente in base a cosa te lo dica, è vero che è una bellissima città, soprattutto Ibla, Ragusa Ibla, però è effettivamente un po' lontana e un po' scomoda. E poi Lecce, tra l'altro c'era qualcuno che mi scriveva fatevi un viaggio in treno Milano-Lecce o Milano-Roma e incontrate un sacco di persone interessanti. Non credo che noi non credo viaggeremo in treno, no. Rimini mi consigliano per due motivi diversi e il secondo è la piadina. Calangianus, che immagino sia Sardegna. Qualcuno mi scrive per Vasco è vero. Cosa è vero? Che va a Zocca da sua mamma. E poi vabbè, Napoli. Ecco, quello di Zocca che mi dice c'è libreria ed è a 8 km da Samone, il paese dei tuoi amici fuggiti della pianura. A presto, mi sono perso la storia. Ah, certo, la storia dei miei amici, come no? Ovviamente, sì, che è l'Appennino o modenese, emiliano direi. Quindi, no, mi sembra dire tosco-emiliano, in questo caso invece proprio solo emiliano. 349-238-6666. In un ritorno da Campobasso a Livorno ho conosciuto Fabrizio, un carabiniere che si occupava di recupero di opere d'arte. Mi mostrò un sacco di foto di opere trafugate con una passione coinvolgente e me le spiegò tutte, fu un viaggio fantastico. E poi ancora Vanessa, immagino Vanessa perché si firma Vane. Purtroppo non è una storia di treno, era il 31 maggio 2005, indossavo delle Adidas e una maglia corta, un numero 13 strappato sopra, perché le ragazze ci tengono a far sapere come erano vestite, cioè per far capire che era un po' una giornata, quel giorno avevo i capelli un po' sporchi, non ero nemmeno truccata, insomma era un normale pomeriggio passato con le amiche, fino a quando un ragazzo carinissimo ci saluta, tutte e tre rimaniamo senza parole, poi due minuti prima del mio pullman viene, si presenta e sale sull'autobus con me, avevo 17 anni, ora ne ho 25 e sono 7 anni che siamo insieme. Olè! E il messaggio è pieno di K. È pieno di K e di X e di parole troncate. E Vanessa ha 25 anni. Credevo fosse appannaggio dei quindicenni le X e le K. No? Forse no. allora, a tutto sommato anche a Bonini scrivo i messaggi con le K, quindi non è esattamente quello che immaginavo. 349-238-6666. Parlando di incontri in treno, a Tiziano è venuto in mente un racconto magnifico di Calvino. Dovremmo attingere un po' di più da lui, perché l'altro racconto, che era molto bello, abbiamo anche pubblicato sul profilo Facebook, si chiamava L'avventura di due sposi, giusto? L'avventura di due sposi, ed era una storia che parlava di questi due sposi, marito e moglie, che facevano turni diversi al lavoro e non si incontravano mai. Abbiamo tirato fuori dal cilindro un altro racconto di Calvino magnifico, che è ambientato in treno e racconta di un giovane militare che incontra una donna avvenente, e c'è un incrocio, ma nemmeno di sguardi, quasi tattile, tra loro due, in cui non succede niente, ma succede di tutto. Si chiama L'avventura di un soldato. Nello scompartimento, accanto al fantetto magra, venne a sedersi una signora alta e formosa. Una vedova provinciale doveva essere, a giudicare dal vestito e dal velo. Il vestito era di seta nera, appropriato a un lungo lutto, ma con guarnizioni e gale inutili. E il velo le passava intorno al viso, piovendole dal giro d'un pesante antiquato cappello. Altri posti erano liberi, notò il fantetto magra nello scompartimento, e pensava che la vedova avrebbe certo scelto uno di quelli. Invece, nonostante la ruvida vicinanza di lui soldato, ella venne a sedersi proprio lì. Certo per via di qualche comodità del viaggiare, s'affrettò a pensare il fante, correnti d'aria o direzione della corsa. Per la floridezza del corpo, sodo, anzi un po' quadro, se le alte curve non ne fossero state addolcite da una matronale morbidezza, le si sarebbero dati poco più di 30 anni. Ma a guardarla in viso, l'incarnato marmoreo e rilassato insieme, eppure le labbra, severamente suggellate, tinte di sfuggita ad un rosso urtante, avevano l'aria di averne invece oltre i 40. Tomagra, giovane soldato di fanteria alla prima licenza, era Pasqua, si rimpicciolì sul sedile, per timore che la signora, così formosa e grande, non c'entrasse. E subito si trovò nell'ala del profumo di lei, un profumo noto e forse andante, ma oramai, per la lunga consuetudine, amalgamato ai naturali odori umani. La signora s'era seduta con compostezza, rivelando, lì accanto a lui, proporzioni meno maestose di quanto gli erano sembrate vedendola in piedi. Il sedile ferroviario era dunque abbastanza comodo per tutte e due, e Tomagra poteva sentire l'estrema vicinanza della signora, pur senza il timore d'offenderla col suo contatto. Ma, ragionò Tomagra, di certo lei, seppur signora, non aveva dimostrato d'avere ripugnanza per lui, per l'ispido della sua divisa, se no si sarebbe seduta più lontano. E a questi pensieri i suoi muscoli, che erano rimasti contratti e rincagnati, si distesero liberi e sereni. Anzi, senza che lui si muovesse, cercarono d'espandersi nella loro maggiore ampiezza. E la gamba, che prima se ne stava a tendini tesi, staccata perfino dalla stoffa del pantalone, si dispose più larga. Tese a sua volta il panno che la vestiva, e il panno sfiorò la nera seta della vedova. Ed ecco, attraverso questo panno e questa seta, la gamba del soldato aderiva ormai a quella di lei con un movimento morbido e fuggevole, come un incontro di squali, e con un muoversi d'onde per le sue vene, verso quelle vene altrui. Solo sfiorando fan volare un genio che avvolge e confonde realtà dentro alle terre dei miei desideri da sempre vissuti a metà. E sorrido a questa voce che mi chiama. Quante risposte mi dai, mai nessuna mai. Solo sfiorando la buccia scompare, pulsando la carne viva. Praticamente un'offerta che svanisce per voracità. È l'impero dei sensi, sfiorisce anche noi. Quante risposte mi dai, mai nessuna mai. Senigallia è bellissima, libreria dove si può bere caffè, prendere gelato. Questo è Paolino che manda questo messaggio. Desenzano del Garda, Trieste, Bologna e poi via Campanilismo. Lodi è più grande di Crema, anche più bella. Forse ti sei confuso con Cremona. Mi sarò confuso. E poi Cremona, la piazza più bella d'Italia. E ancora Foligno. Questi sono Bonini e Paolino che si rintanano dietro alla regia e mandano messaggi. E poi arriva soprattutto il tragitto di quello che va a piedi e in autobus in non mi ricordo più dove, fino a Bangkok, Balcani, Bulgaria, Turchia, Georgia, Azerbaijan, traghetto, Kazakistan, Cina, Tibet, Nepal, India, Myanmar e Thai. La storia di oggi è la storia di Elisa, parlava di incontri in treno. Quella di domani è la storia di Anna e parla di salutare il proprio padre. Dopo quel bacio sono salita in macchina e mi sono messa a cercarlo con lo sguardo. Ero convinta di vederlo almeno rientrare verso casa. In realtà no. Rimaneva lì, sul marciapiede, come bloccato, e continuava a fissarmi. A quel punto ci siamo mossi noi, e mio padre, visto attraverso quel finestrino, diventava sempre più piccolo e continuava a guardarmi. Non avevo mai visto uno sguardo così triste negli occhi di mio padre, e non l'avrei mai più rivisto negli occhi di nessun altro.